sono le ore 10 e 2 minuti di sabato 23 marzo 2024. E come sapete, io nei confronti di questa città, Roma naturalmente, sono spesso troppo indulgente, mi dicono, cioè sono troppo buono, non parlo mai delle cose che non funzionano. E questo, diciamo che non è vero, ma il punto è che cerco di evitare il schifo, no? Siamo davvero, cioè, appunto, dalla poltrona si dice tutto quello che non... E così si pensa di aver fatto anche un'opera buona. Questo è veramente incredibile. Le persone che fanno qualcosa di buono per questa città tipicamente lo fanno in silenzio. Ecco, questo devo dirlo. E tra le persone che fanno cose buone per questa città e lo fanno in silenzio ci sono i gestori dei jazz club, che sono secondo me a Roma un'eccezione in un sistema, diciamo così, legato alla musica, che non è particolarmente felice sotto tanti punti di vista. Non che la scena jazz a Roma sia straordinaria, tutt'altro, cioè risente della povertà fondamentalmente che ruota intorno a questo genere musicale. Però se pensiamo alle operazioni di successo, per esempio il Blue Note di Milano, allora mi tengo la povertà, ecco, perché per sentire i concerti che si ascoltano al Blue Note di Milano, allora lascio perdere il Jazz Club, vado alla Casa del Jazz, vado all'Auditorium e spendo un terzo di quello che si spende al Blue Note. Quindi, però a parte questo, evidentemente i jazz club a Roma sono ancora gestiti in modo abbastanza familiare, e questo è un, per certi versi, un vantaggio, ma naturalmente scatena tutta una serie di dinamiche di tipo familistico, e questa è la parola più gentile che mi viene, per cui insomma è abbastanza facile capire quali sono certe logiche di potere, certi spazi che sono presidiati da certi artisti e dai loro parenti, mi verrebbe anche da aggiungere. E quindi, al netto anche di tutti questi rapporti di forza che poco hanno a che vedere evidentemente con l'intermediazione culturale, però alla fine negli spazi che si aprono, perché per fortuna i jazz club hanno degli spazi magari nelle serate meno ambite, e si ascolta spesso ottima musica spendendo veramente poco. E per esempio ieri siamo andati a sentire con mia figlia e alcuni suoi amici, e anche con Claudio Ferilli, che è un altro appassionato di musica jazz, con cui spesso andiamo a sentire musica insieme. Siamo andati a sentire Gege Munari, che insomma è un batterista che compirà a luglio 90 anni e che ci ha regalato davvero un spettacolo straordinario, secondo me, che va chiaramente anche al di là della musica. E mi è venuto in mente Elvin Jones, no? Che prendevamo in giro perché faceva concerti a 80 anni con la bombola a ossigeno. Ecco, Gege Munari ha l'energia di Elvin Jones senza la bombola a ossigeno. È davvero stato straordinario in questo piccolissimo, affollatissimo buco che è il Charity Café nel quartiere di Monti, dove però, insomma, la cosa bella è che alla fine, se hai un po' di pazienza e di capacità di movimento strategico, trovi un posto per sederti, prendi un drink e con 10 euro è una delle migliori serate che si possono trascorrere a Roma, secondo me. Poi la sera prima siamo andati al Gregory's per un altro concerto, un altro quartetto, niente male. Gregory's, che invece punta a un pubblico un pochino più high spender, mi verrebbe da dire, quasi sempre turisti stranieri, però alla fine riescono ad allestire cose molto carine tutti i giorni, sia al chiuso sia nella versione all'aperto. D'estate tipicamente si spostano su uno dei barconi del Tevere e proseguono con la loro programmazione anche lì. E poi vabbè, ci sono altri locali storici, l'Alexanderplatz, che chiaramente dopo la morte di Rubei adesso è gestito dai discendenti diretti, più o meno nello stesso modo, anche se chiaramente ha perso un po' di smalto, e lì tipicamente incontri più o meno sempre le stesse persone che vanno a sentire il jazz a Roma, no? E potrei andare avanti con altri locali, c'è il Bebop, c'è l'Elegance Café, c'è, ci sono dei bar che propongono jazz ogni tanto come il Gatsby, sui portici di Piazza Vittorio. Sono delle serate salvataggio, io direi, dove puoi davvero anche decidere all'ultimo secondo senza programmare, senza quel clima un po' di pressione sociale che c'è intorno ai cosiddetti eventi che infestano la capitale. Dico infestano perché purtroppo, ne parlavamo con Leonardo Zaccone qualche tempo fa, quello che succede è che questi eventi, questi festival, sono bellissimi, il problema è che esplodono tutti insieme in due periodi picco, che sono la primavera e l'autunno. Per esempio questo weekend, oltre a Libricoma, che è una manifestazione molto molto interessante, di grande interesse, che riesce davvero a inquadrare momenti della nostra vita e a farci riflettere con i giusti tempi, che non sono i tempi dei media, ma i tempi spesso dei libri. Però oltre a Libricoma, questo weekend ci sono altri due festival letterari, incontri di slam poetry, cioè improvvisamente a Roma succede tutto il weekend del 22 marzo. Al Macro hanno aperto delle nuove mostre, cioè, e sarà così, io lo so, ormai, fino a giugno. Poi di nuovo ci sarà l'estate nucleare, in qualche modo compensata dall'estate romana, sperando che i bandi arrivino in tempi umani. E poi ci sarà di nuovo l'esplosione degli eventi dell'autunno, tutto deve succedere tipicamente settembre, ottobre, e poi di nuovo la corsa per il Natale, e dopo il Natale altri due mesi di inverno nucleare. Io non penso che sia molto intelligente, in una città tra l'altro che ha un clima ottimo più o meno sempre, questa ciclicità la trovo abbastanza autolesionista.